Il punto di Stefano Folli. La vera impronta politica del DEF sta nella frase di Renzi lanciata sul solito Twitter: cominciano a pagare quelli che non hanno mai pagato. È l'idea che sarà al centro della campagna elettorale di un DEF che restituisce ai redditi bassi attraverso gli 80 euro quello che banche e grandi manager avrebbero sottratto negli anni. Siamo nel campo del populismo più raffinato, assai diverso da quello rozzo di Grillo, ma proprio per questo potenzialmente efficace sul piano elettorale. Renzi si conferma politico astuto anche su un terreno difficile come è appunto il DEF, la cui sostanza economica sta invece nel rispetto assoluto dei vincoli europei garantito dal ministro Padoan. Il 3% del deficit rimane intatto e non si utilizza quello 0,6% di margine per finanziare i tagli IRPEF e raccogliere consenso, come in un primo tempo avrebbe voluto fare il Premier. La crescita economica è modesta, anzi modestissima, ma Renzi è bravo ad accendere i riflettori su altri capitoli del documento, quelli che più colpiscono l'opinione pubblica.